Allora, negli ultimi anni la percentuale di traffico peer-to-peer sulla rete è aumentata in maniera veramente notevole. A oggi, diciamo, la percentuale di traffico che dalla rete va verso gli utenti, il peer-to-peer ha superato la soglia del 70%. Addirittura, invece, per la parte di traffico che dagli utenti va verso la rete, siamo oltre il 95%. Quindi stiamo parlando di numeri estremamente elevati. Ecco, detto quanto è l'impatto del traffico peer-to-peer sulla rete, questo grande traffico, quali tipi di problemi crea sulla rete? Ma allora, ne crea, se non controllato, ne crea diversi. Diciamo che il primo è impatto da un punto di vista economico, perché quando sono state un po' stabilite le varie tariffe ADSL, si è sempre basati su un business model che prevedeva il fatto che una linea ADSL di un cliente non veniva utilizzata costantemente 24 ore al giorno alla sua potenzialità massima. Anche perché, bene o male, quando si progettano qualsiasi tipo di rete, c'è sempre il fattore della contemporaneità, no? Come ad esempio, non so, l'acquedotto è strutturato in modo che riesce a servire l'acqua a un certo numero contemporaneo di richieste, perché se in un paese tutti aprono il rubinetto, contemporaneamente non esce più niente, ed è così per le autostrade e qualsiasi tipo di rete, ed è anche per le comunicazioni elettroniche. Anche perché, bene o male, qualsiasi tipo di applicazione che non sia il peer-to-peer fa un utilizzo del traffico non continuo. Il web, io scarico la pagina e poi per x secondi sto fermo. Idem per l'email, anche lo stesso streaming video me lo guardo, però poi c'ho sempre delle pause. Viceversa, il peer-to-peer è come un blob, no? Cioè io l'accendo. E lui, per come è fatto, tende a saturarmi tutto il mio canale, sia di trasmissioni sia di ricezione, che questo va sempre, giorno e notte. Man mano che la percentuale di utenti di un certo operatore aumenta col peer-to-peer, si raggiunge una soglia per cui quell'operatore, se non prende dei provvedimenti, inizia ad avere una marginalità negativa sui propri clienti. Perché o aumenta i prezzi a dismisura per sostenere la crescita del traffico, per cui investire e potenziare la propria rete, altrimenti ai prezzi di mercato a cui oggi gli operatori vendono ADSL, non è sostenibile non controllare questo tipo di traffico. Sì, è Quindi già non è molto. sostenibile ora attendere che la percentuale di traffico peer-to-peer cresce sempre di più, non lo sarà neanche in futuro. La rete con il fenomeno peer-to-peer è come una città che fosse sempre invasa dal traffico e quindi si sta perennemente in fila. Sì, con l'aggravante tra l'altro che ci sono diversi studi che sono stati fatti che dicono che oltre il 60% del materiale che viene scaricato in peer-to-peer, la gente manco lo guarda. Sostanzialmente si selezionano i file da scaricare, PC va avanti, scarica notte, giorno, eccetera, poi molto spesso la roba scaricata viene cancellata senza neanche guardarla. Perché col fatto che un tipico cliente dice: vabbè, tanto la connessione flat l'ho già pagata, scarico sempre, no? E si crea tutto questo traffico che molto spesso è anche inutile. Peccato che però all'operatore lo costringe a dover investire, a incrementare la propria rete, e lo farebbe anche ben volentieri se avesse un ritorno economico, ma purtroppo non è così.